9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 4 novembre e lo avete sentito alle edizioni del giornale radio che hanno preceduto anche questa trasmissione, il giallo sul monitoraggio del Fondo Monetario Internazionale Italia e Spagna è l'ennesima riconferma, come abbiamo detto giorno per giorno, della condizione particolare nella quale resta l'Italia. È una condizione che per evitare di far accrescere la diffidenza del mercato e per evitare di fare dell'Italia il contagio possibile sui mercati internazionali è di volta in volta accresciuta nel grado di monitoraggio. Quindi siamo passati da quello della BCE a quello del Consiglio Europeo e della Commissione. Nella notte sono state confermate le notizie che già nei giorni precedenti volevano estendersi intorno a Italia e Spagna una cintura di sicurezza da parte del Fondo Monetario Internazionale. Perché dal Fondo Monetario Internazionale e non dall'FSF? Perché il Fondo Monetario ha, come sappiamo, procedure più rapide per interventi di emergenza e attualmente ha meccanismi molto più coattivi di intervento sui paesi che monitora rispetto a quelli del meccanismo europeo, che è incerto, appena varato, barocco nelle procedure di consenso interno e diluito nelle possibilità finanziarie. Invece, scrivono stamattina giornali come la Frankfurter Allgemeine e Figaro, che sono i due grandi quotidiani che più hanno confermato e rilanciato le notizie di un consenso intorno al tavolo del G20, ma che è venuto anche da grandi paesi come indiani, tant'è vero che per esempio sull'articolo della Frankfurter Allgemeine trovate citate fonti indiane del G20, secondo le quali appunto la convergenza di tutti è stata quella di far erigere intorno a Italia e Spagna un monitoraggio più stretto da parte del Fondo Monetario Internazionale. Invece questa nelle prime ore di stamana il governo smentisce, il governo italiano, si parla di una più stretta convergenza solo con il Fondo Monetario ma intorno a tutta l'euroarea. Oltretutto il Fondo Monetario nei suoi meccanismi di intervento straordinario ha la disponibilità fino a 500 volte il valore della quota di diritti che ciascun paese vanta nel Fondo Monetario. Questo significa per esempio che nel caso dell'Italia sarebbero a disposizione 45 miliardi di euro, nel caso della Spagna 23 miliardi di euro. Comunque, solo per confermare comunque siano andate davvero le cose, che questo giallo non aiuta per l'ennesima volta a dissipare quei dubbi sulla credibilità dell'Italia che al G20, e per quanto distratto dalla vicenda greca e per quanto successo abbia avuto la Merkel e Sarkozy nel far fare marcia indietro a Papandreou sul referendum, comunque per quello che riguarda l'Italia non ha visto migliorare la nostra credibilità. Mi ha fatto molto sorridere come il popolare Bild, il giornale iper popolare tedesco, ha sintetizzato il successo franco-tedesco nei confronti della Merkel, perché c'è un grande titolo, Bild fa delle prime pagine molto popolari con grandi foto e Angela Merkel viene presentata come Angela Mercules, cioè l'Ercole tedesco che riesce a piegare i mostri greci, un po' come Perseo faceva con i mostri del mare. Questo resta il quadro della credibilità italiana, per così dire, sia pure all'indomani di una felice mossa alla Banca Centrale Europea. L'esordio di Mario Draghi ha tanto soddisfatto quell'editoriale del Financial Times Deutschland di Wolfgang Preussler che citavo ieri, che mi aveva colpito perché era in controtendenza. È raro vedere dei tedeschi che su un giornale di solito con indirizzo conservatore dicono caro Draghi esordisci e stupisci, non fare marcia indietro sulle politiche di sostegno alla crescita e di interventi di emergenza abbracciati da Trichet, vai avanti. Lui tanto li ha esauditi che oggi sullo stesso giornale Wolfgang Preussler dice: avete visto, è di questo che c'è bisogno, non di meno, visto che altrimenti andiamo in contrazione, purché però i governi capiscano che abbiamo bisogno anche di misure comuni, leve comuni per la politica economica e fiscale. Ma su questo sfondo, quello cioè di un allarme che non viene meno verso le condizioni finanziarie e la credibilità dell'Italia, ecco il tema della giornata di oggi, che è un tema che si rivolge alle condizioni politiche interne del nostro paese. Sta di fatto che la Grecia ieri, con gli sviluppi la rinuncia al referendum e il governo di transizione a cui Papandreou ha dovuto piegare il capo senza la maggioranza e dovendo accettare una prospettiva in cui sarà Luca Papademos, che era nel board della BCE, quindi un banchiere centrale, a mettere in piedi un governo di transizione, e un'altra conferma verso la linea di quei governi commissariati e di transizione semitecnici allargati comunque, che è un po' la strada attraverso la quale il Portogallo, la Spagna, la Grecia hanno subito e subiscono al meglio il commissariamento, perché le forze politiche interne, le coalizioni tradizionali, non si trovano nelle ordinarie possibilità di esaudire davvero quello che i mercati e l'Europa vogliono da loro. E allora la domanda diventa: ci stiamo avvicinando, dopo averlo negato per un anno e mezzo, alle stesse condizioni? E il centrodestra, per via delle iniziative assunte da membri del PDL appartenenti alla maggioranza, che chiedono finalmente ed esplicitamente un passo indietro, oppure un passo avanti, chiamatelo così se preferite, da parte del Presidente del Consiglio, cioè gli chiedono la acquisizione di consapevolezza che così facendo può solo inabissare se stesso e il significato stesso del partito che ha fondato, della coalizione a cui ha dato vita, e gli chiedono invece di fare un passo verso il quale Berlusconi ha sempre dichiarato di non essere pronto. Inutile andare all'ennesima conta, una conta che da mesi ha un procedere inesorabile verso una sola direzione. Erano 344 i margini su cui poteva contare la maggioranza alla Camera nel maggio 2008, erano 340 nel novembre 2008, erano 337 nel luglio del 2009, 329 nel novembre del 2010, 315 il 14 dicembre del 2010, e quando ci fu la conta dopo l'uscita di Fini, e siamo a 316 al 15 ottobre 2011. Ma con queste nuove uscite, con la lettera dei sei parlamentari insieme a Giorgio Straquadanio, che ieri sul Corriere della Sera, per così dire, ha dato fuoco alle polveri, con i due parlamentari che sono ieri fuoriusciti, Alessio Bonciani e Ida De Polito, verso l'UDC, con il dibattito che si sente, lo avete sentito pochi minuti fa, questi stessi microfoni, l'onorevole Cazzola, l'onorevole Paniz, in questi giorni si è messo sulla stessa linea. Che cosa succede nel centrodestra? E dall'altra parte, siamo sicuri che il centrosinistra fosse in grado di adottare misure vagamente non in grado di deludere altrettanto, se non di più, rispetto a quanto ci chiede la BCE e i mercati? Ecco, centrodestra e centrosinistra, occupiamoci di questo mentre il sospetto dei mercati e il giallo del Fondo Monetario si chiarisce. Abbiamo con noi per questa trasmissione l'onorevole Giorgio Straquadanio, che saluto e ringrazio, buongiorno. Buongiorno a lei, direttore, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. E il professor Gianfranco Pasquino, che segna Scienza Politica a Bologna. Buongiorno professore. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, Straquadanio, non si può dire che la vostra iniziativa non abbia avuto vasti echi. Pochi minuti fa, nella trasmissione precedente, con Alessandro Milan, Brunetta diceva: ma che, sono tutte sciocchezze, non c'è nessun problema da questo punto di vista. Al di là della linea ufficiale di risposta a cui sono o si ritengono tenuti i membri del governo, l'aria che spirava ieri nel gruppo, nei contatti che avete avuto dopo la lettera che avete firmato, secondo lei che cosa l'autorizza a pensare? È immaginabile che nel vertice del PDL e poi fino al fondatore, a Berlusconi, si estenda questa consapevolezza che è meglio evitare di andare sotto in una conta in cui il rischio è molto elevato, oppure a suo giudizio invece si riproverà ancora una volta fino alla fine, nella certezza che poi siano i radicali o sia qualcun altro, il margine per fare 315 c'è? Ieri è stata una giornata fitta di incontri tra noi firmatari della lettera e i vertici del nostro partito. In particolare abbiamo parlato a lungo con Denis Verdini, qualcuno di noi con Angelino Alfano, e a differenza di quanto si possa pensare in quello che è il tradizionale teatrino della politica, non ci è stato offerto nulla che sia di interesse personale. Noi non abbiamo chiesto posti, non abbiamo chiesto incarichi, non abbiamo chiesto nulla che non l'apertura di una discussione che nelle prossime ore, una discussione politica non è la vittima, perché l'unica alternativa che io vedo ragionevolmente è che o lui viene travolto dai fatti, e in quel caso sono guai per tutti, anche non solo per il presidente Berlusconi e per il suo partito, non solo per il centrodestra, ma io temo per l'Italia. Oppure noi andiamo di fronte a un'ipotesi di uno scontro elettorale, ieri l'ha chiamato un lavacro o un'ortalia Giuliano Ferrara, che francamente sia la cosa di cui meno abbiamo bisogno, perché scaricare tensioni sociali prima ancora di prendere misure su uno scontro elettorale che sarebbe durissimo e sarebbe gonfio di risentimenti, non porterebbe certo il Paese alla consapevolezza di quello che va fatto e che il Presidente del Consiglio sembra aver acquisito. Cioè, il nostro problema è questo: noi abbiamo un Presidente del Consiglio che ha preso impegni con le istituzioni europee che sono stati approvati da queste istituzioni e dal Parlamento italiano e dal popolo italiano in una certa misura, però non abbiamo la forza politica di realizzarli per l'esiguità della maggioranza e per il contrasto permanente tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia. Da questo bisogna uscirne, perché se lo spread sale in Italia è per una doppia ragione. La prima è quella che il governo appunto è in difficoltà nell'agire, bloccato da questi due macigni. La seconda è che le aspettative sulle elezioni sono ancora più negative, perché a differenza della Spagna, dove l'annuncio di elezioni anticipate mette sullo sfondo la probabile vittoria dei popolari e di Mariano Rajoy, che hanno la stessa ricetta che viene chiesta dall'Unione Europea per affrontare la crisi del debito sovrano, in Italia la prospettiva elettorale dice che sarebbe vincente l'alleanza di sinistra, vendola di Pietro Bersani, che ha una ricetta esattamente opposta a quella che viene richiesta oggi per battere la crisi del debito. Ho detto con una battuta: la ricetta della sinistra è quella di curare il tumore del debito pubblico con la diossina invece che con le appropriate cure, che sono dolorose ma necessarie e fanno guarire dalla malattia. Allora, aspetta un secondo, che siccome la qualità del collegamento sta decadendo, noi la richiamiamo un secondo, la fermo esattamente su questo punto del suo giudizio rispetto alla coalizione del contrapposto del centro-sinistra. In effetti è vero che nelle note delle agenzie di rating che si diffondono nel giudicare la condizione di stabilità e governabilità politica, osservazioni come quelle che lei ha richiamato ci sono davvero, non sono, per così dire, illazioni di un componente del PDL, ci sono, e questo contribuisce in effetti anche nelle valutazioni del capo dello Stato, da quello che abbiamo visto. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando un anno fa, per esempio, si arrivò allo strappo tra Berlusconi e l'onorevole Fini, e quando passò più di un mese perché dallo strappo celebrato si andasse poi in Parlamento al voto di fiducia, passò tutto il mese di novembre nell'attesa, era evidente che quel mese di attesa assecondava in qualche misura, sia poi non ufficialmente, ma assecondava il tentativo da parte della maggioranza e del Presidente del Consiglio di rappattumare la sua maggioranza. Se gli avessero dato 48 ore di tempo per il voto di fiducia sarebbe andato sotto, tutto sarebbe finito già un anno fa, ma evidentemente contava in quell'atteggiamento istituzionale di assecondare la richiesta di tempo aggiuntivo, contava la valutazione che dall'altra parte non si fosse pronti, che quindi il problema dell'Italia non si sarebbe risolto, ma saremmo passati da una condizione di scarsa credibilità a una condizione di distanza oggettiva rispetto ai fatti. È legittimo ovviamente che coalizioni e partiti abbiano giudizi e posizioni sulle misure da assumere totalmente divergenti, è legittimo che l'opposizione ci siano tanti che pensano che siamo di fronte a una crisi di sistema, che è finito una lunga fase del capitalismo finanziario, che bisogna fare solo redistribuzione picchiando duro con più tasse eccetera, ma al di là di questo quello che conta è che quando si è sotto il fuoco della diffidenza dei mercati, e allora questa legittima presa di posizione politica può diventare poi un aggravamento generale delle condizioni, prima ancora che si possano vedere le politiche. Pasquino, lei che pensa di questa preoccupazione di una specie di doppia, speculare e simmetrica incapacità di dare risposta o distanza rispetto a quello che si aspettano i mercati, al netto naturalmente del fatto che nessuno si permette di avvicinare il giudizio su 17 anni complessivi di esperienza di Berlusconi e di tutti i difetti evidenti di questo rispetto ai fallimenti politici negli anni precedenti, nelle legislature in cui ha governato del centro-sinistra, c'è un peso diverso, ma al di là di quello adesso stiamo parlando di come si risponde ai mercati dell'Europa. Qual è la sua impressione, Pasquino? Ai mercati e all'Europa si risponde naturalmente con misure economiche e sociali che siano particolarmente ben definite, che siano incisive e che siano strutturali. E si risponde anche in termini molto rapidi, perché i giorni contano, come diceva Benjamin Franklin, time is money, il tempo è denaro, e quindi metterci per esempio 40 giorni per fare una manovra che per di più fu scritta in quattro versioni, approvata forse nella quinta, è stato tra la fine di luglio e inizio di settembre un errore molto grave. Anche adesso è circa un mese che si parla di queste misure, non si vede ancora che tipo di intervento ci sarà per lo sviluppo, forse riusciamo a fare lassù un po' di stabilità, ma di sviluppo non se ne vede. E quindi c'è questo elemento della rapidità dell'azione e anche della incisività e della, se posso dire così, strutturalità. Però la politica, così come l'economia, è fatta da uomini e donne. E quindi c'è anche un elemento che è inutile negare, cioè il Presidente del Consiglio in Europa ha scarsissimo prestigio e scarsissima credibilità, anche perché gli intenti precedenti non li ha mai esauditi fino in fondo. Hanno più credibilità altri paesi, di recente leggevo per esempio che il Portogallo si vantava della sua credibilità, ed è giusto che sia così, ha più credibilità in questo caso la Spagna. Lo stesso Zapatero, vedremo poi se vincono le elezioni popolari. E quindi c'è questo elemento che probabilmente misure simili, ma forse leggermente diverse, credo, prese da un altro governo, con un altro Presidente del Consiglio italiano, avrebbero maggiore possibilità di essere giudicate in maniera positiva dai mercati. Allora, Straquadagno, stavamo dicendo, lei parlava di un'atmosfera in cui i contatti politici, nessuno vi ha offerto niente di personale, stiamo parlando di voglio dire, una prima espressione di dissenso politico, che è ciò che spesso al PDL è stato in questi due anni in maniera crescente mosso come accusa di non avere mai espresso, che è una forma dell'articolazione inevitabile di fronte alla difficoltà poi delle iniziative politiche di un grande partito popolare che vuole continuare anche per il futuro ad avere un peso e a esercitare un grande ruolo nella società italiana, al di là del fatto che poi il suo leader sia nelle condizioni nei sondaggi di non esserne più la guida. Tutti i grandi partiti fanno così, ha fatto così qualunque grande partito di governo o di opposizione nella storia del nostro paese come nell'Europa. In definitiva la vostra è una verifica, per così dire, se capisco bene, che il PDL sia un partito destinato a rimanere tale, con l'ambizione e anche le forme organizzative di confronto interno per rimanere tale, un grande partito popolare, invece se non sia un leader che lega a sé la sorte di qualunque esponente, sia di governo, sia del partito, sia dei gruppi parlamentari di questo partito, fino al punto di dire o con me o senza di me e senza partito, un po' senza futuro. Non è un po' così anche? In qualche misura sì. Lei prima ha detto che usava l'espressione un passo indietro, un passo avanti. Buttiamo via queste espressioni e parliamo di un'altra espressione che si chiama svolta. Premier, secondo me, è ancora nelle condizioni politiche di essere leader e di imprimere una svolta politica. Quello che io temo, più che una deriva personalistica di Berlusconi, è una deriva personalistica del gruppo dirigente del mio partito. Cerco di dirla meglio per non essere troppo semplicista. È chiaro che se noi andiamo alle elezioni anticipate, ci sono 170-180 parlamentari che verranno confermati, 115 deputati e una cinquantina di senatori. Ebbene, questi si possono tramutare in una situazione successiva che è indipendente a quel punto dal destino anche personale di Silvio Berlusconi. Io non vorrei che nel calcolo di molti ci sia l'idea che si utilizza Berlusconi come un traghetto in una fase successiva e chi vivrà vedrà. La mia preoccupazione è di preservare la persona e la condizione politica, giudiziaria e patrimoniale del Premier in una condizione in cui l'ortalio elettorale, così l'ha chiamata Giuliano Ferrara, si rivolgerebbe tutta addosso a lui e non a coloro i quali si traghetterebbero dall'altra parte. Quindi io sono tra coloro che dice che le elezioni anticipate sono il peggior male per un centrodestra competitivo e sono la fine personale, politica, giudiziaria e patrimoniale del Premier, e mi batto per conquistare uno spazio di azione politica che metta al sicuro il Paese rispetto al suo problema principale di credibilità, che è la dimensione del debito pubblico. Quando si va da qualunque parte con il debito pubblico che vale un anno e quasi mezzo di produzione, cioè di PIL, è difficile essere credibile. Si può essere intelligentissimi, bravissimi, capacissimi, ma quando un debito è gigantesco ammazza anche le migliori volontà e capacità. E secondo luogo, la debolezza intrinseca nostra e la debolezza parlamentare, il contrasto col ministro dell'economia. Occorre una svolta che allarghi la base parlamentare, altrimenti la parola dritta sulle opzioni che il Presidente del Consiglio ha in Europa e porti in sicurezza il centrodestra e il suo leader. Io ho ricordato che nei momenti più difficili Berlusconi ha avuto capacità creative straordinarie. Nel 95 il centrodestra sembrava in un culo di sacco durante il governo Dini, non si muoveva da nulla. Di quell'occasione Berlusconi propose al PP di Castagnetti e Rossi Bindi un accordo per il governo istituzionale, che era il governo meccanico, per fare le riforme e uscire in questo modo dall'angolo. Stava per nascere questo governo, se non la Tabenacci e il Franco Fini ci portò alle elezioni e ci fece perdere, ma ci mantenne in partire. No, no, certo. Però ovviamente molti pensano che quella intraprendenza politica del Berlusconi all'inizio negli anni sia venuta meno. Poi c'è anche un fronte molto pesante, rilevante, autorevole, dipende dai giudizi, dai punti di vista, di consiglieri intorno al Presidente del Consiglio, che invece gli indicano una via molto diversa da quella illustrata da Straquadanio, da quella a cui poi accenna anche esplicitamente, per esempio, nella sua intervista al Corriere della Sera oggi, Pier Ferdinando Casini. Il titolo che dà il Corriere è: governo di larghe intese, il PDL dica sì o si dissolverà. Perché altri autorevoli esponenti del PDL, come diversi ministri, lo stesso Brunetta, Sacconi, oppure come intellettuali vicini, organici, sia pure disorganici e disomogenei nella loro versatile intraprendenza intellettuale, come Giuliano Ferrara, che titolano oggi in prima pagina le elezioni subito, naturalmente. Questo è il fronte che dice: sguaina la sciabola, capo, portaci come la brigata di cavalleria leggera contro la fila di cannoni a Balaclava, il mito dell'eroica morte, per così dire. Andiamo sotto in Parlamento in maniera tale da rendere impossibile, poi, sempre che sia vero, una volta che non abbiamo più la maggioranza, la formazione di un altro governo. Aggiungo, sempre che sia vero, cioè sempre che sia vero che poi i parlamentari che si sottraggono al PDL non si rendano automaticamente disponibili a una maggioranza diversa, pur di non andare immediatamente al voto, e per non aggravare la condizione finanziaria dell'Italia. Questo calcolo è tutto da verificare. Però la fila, le file di coloro che dicono a Berlusconi immoliamoci Orazio Sol contro l'Etruria tutta, al di là del futurismo immaginifico su cui si fonda, insomma, la loro intuizione politica, è molto diverso come linea da questa ragionevole acquisizione di consapevolezza che Berlusconi si deve fare da parte e che bisogna immaginare qualcos'altro. Ed eccoci tornati con il consueto consiglio del giorno. Trovate oggi su Sole 24 Ore la nuova puntata del manuale antipanico, casa, conti, investimenti, come non sbagliare, di quale paure non cadere vittime, ma anche quali consigli seguire, quali consulenze, quali linee di esperti invece affidare la propria, il proprio risparmio al proprio patrimonio. E domani in edicola la riforma del governo spiegata in 100 voci, quindi non perdetevi questa bussola antipanico che tocca a noi per radio, ma soprattutto ai colleghi che ogni giorno macinano pagine su pagine rispondendo ai vostri quesiti, tentando di illustrarvi come faranno domani le riforme del governo spiegate in 100 voci. Auguri anche a tutti i Carli, oggi è San Carlo, un nome che mi sta molto caro, sono molti cari amici che mi danno anche una mano professionale, talvolta anche in tribunale di fronte a chi mi porta lì, ma fino a questo momento senza soddisfazione come la RAI la scorsa settimana. San Carlo Borromeo, il Sole oggi titola un'analisi di Folli, fino a questo momento in Parlamento si confrontano due debolezze. Stefano Folli col suo equilibrio descrive il centrodestra che è sotto quota 315, ma anche il centrosinistra diviso verticalmente rispetto al giudizio da dare alle richieste europee dei mercati e alle risposte da tradurre quindi in provvedimenti concreti, dice sono due debolezze. Di fronte a queste due debolezze c'è poi chi invoca un governo tecnico come disceso dalle nubi del Colle, del Quirinale, e che possa per così dire prescindere dalla debolezza conclamata dai pezzi persi dal centrodestra, dalla credibilità persa dal suo leader in questi anni, ma che però possa anche prescindere dal fatto che il centrosinistra è lontano da riforme di mercato come quelle chieste e non vuole sporcarsi le mani prima di elezioni che secondo i sondaggi potrebbero portarlo quantomeno ad assicurarsi la maggioranza in una Camera. Non è affatto detto, perché dipende se si vota con questa legge elettorale, e si voterebbe con questa legge elettorale dal successo del centro più Montezemolo, se al Senato il centro, io credo di sì, attualmente con i sondaggi sarebbe invece in grado di impedire al centrosinistra che scattasse il premio di maggioranza anche al Senato, e quindi entreremmo in una situazione nella quale con elezioni con un esito di questo tipo bisognerebbe immaginare un patto tra sinistra e centro unicamente volto però a cambiare la legge elettorale, quindi andare avanti con un'altra transizione a termine della quale riandare ad elezioni. Capite che sono tutti tempi non compatibili rispetto al fuoco di diffidenza alimentato sull'Italia. Pasquino, lei che pensa di questo? Un governo, diciamo così, più lontano dalla polvere della politica e da quello che Stefano Folli considera due debolezze a confronti, potrebbe essere una via di transizione per impedire al centrosinistra, per così dire, di sporcarsi le mani, voglio dire. Io capisco che sia legittimo dire la redistribuzione è il primo problema nell'Italia di oggi e serve anche per far ripartire la crescita con la patrimoniale, però da quello che si è letto fino a questo momento di quello che ci chiedeva l'Europa non è tanto questo il punto. E allora un governo istituzionale secondo lei oppure come? Ma anzitutto direi che non ci sono due debolezze, perché c'è una debolezza che è più debole dell'altra. È quella che abbiamo sperimentato dal 2008 al 2011. Non dimentichiamoci che questo è un governo che ha avuto 3 anni di tempo per fare delle cose. È un governo che non può più vantare di essere stato scelto dagli elettori, perché come giustamente e molto puntigliosamente lei ha documentato, questa maggioranza è cambiata, non è la maggioranza che ha vinto le elezioni, è cambiata perché ha perso pezzi e ha acquistato altri pezzi. E l'altra potrà anche essere una debolezza, però sappiamo che all'interno dello schieramento di centrosinistra ci sono degli uomini e delle donne capaci e che quindi meritano forse di provare a risolvere questa crisi. Magari in questo periodo di tempo hanno anche imparato che devono riuscire a essere come dire, più propositivi e non semplicemente a chiedere al capo del governo di fare un passo indietro, che fra l'altro è uno slogan che trovo abbastanza irritante. Bisognerebbe che i commentatori, a cominciare da Oscar Giannino, chiedessero al centrosinistra che cosa pensa della famosa lettera della BCE, e nessuno deve accettare in toto quello che la BCE ci chiede, però deve riuscire a spiegare perché, come farebbe meglio di quella lettera, in quali settori, e se ha davvero presente la gravità della crisi, perché ho l'impressione che anche dentro il centrosinistra ci sia qualcuno che pensa che non è così grave, però certamente ce ne sono molti che pensano invece che la situazione richiede delle misure strutturali. Io nella fattispecie credo che una delle misure strutturali debba essere la patrimoniale, una patrimoniale fatta bene, quindi non sulle case dei cittadini, non sulle prime case naturalmente, ma su tutto il resto, che è molto, perché questo è un paese che continua ad avere molti ricchi, anche se ne a questo punto, come dire, la ricchezza complessiva non è molto elevata, però i ricchi sono molti. Una buona patrimoniale consentirebbe di abbattere il debito pubblico. Se passassimo dal 120 al 90% con una patrimoniale fatta bene, in un colpo solo, che sia in un certo senso anche equa, noi risparmieremo un sacco di soldi in termini di interessi. Dopodiché, che governo può fare questo? E un governo di questo genere deve, credo, necessariamente avere anche del consenso politico. Non può essere un governo fatto da professori ancorché bravissimi che scrivono sul Corriere della Sera, che hanno certamente il prestigio europeo, ma che ahimè purtroppo non conoscono abbastanza bene né la politica né i politici, e quindi non sono in grado di conquistare il consenso. Sono in grado di indicare quali sono le misure economiche migliori, quelle che l'Europa apprezzerebbe, quelle che i mercati sarebbero in grado di accettare e anche di considerare con favore, ma certo non di produrre consenso. I governi devono comunque avere un consenso, e a questo punto quindi un governo di emergenza, di unità nazionale, di responsabilità, alla quale certamente devono partecipare anche gli esponenti del PDL, sarei meno inclino a far partecipare la Lega, che mi pare un partito di irresponsabilità nazionale, e poi vediamo, perché vedo che nel frattempo Vendola si chiama fuori, e peggio per lui, si chiami pure fuori e rimanga fuori. A me pare che il ragionamento del professor Pasquino nel sottolineare che i professori possono servire per illustrare e dare i voti, però poi alla fine hanno qualche problema nella agibilità e nell'interpretazione in tempi rapidi della politica, sia un giudizio che può sembrare da alcuni poco rispettoso, a me sembra condivisibile in toto, e oltretutto viene da appunto un accademico, un professore come Pasquino, quindi non sospettabile di essere un politico di professione, mentre invece penso che sia appunto la politica chiamata a riflettere sulle proprie responsabilità, che nel caso del centrodestra, io condivido quello che ha detto Pasquino, sono pesantissime in questi tre anni, a maggior ragione io apprezzo e do voce, sto rispondendo a molti ascoltatori che dicono ma perché tutto questo tempo a Stracquadagno? Perché ha assunto l'iniziativa insieme a colleghi di partito di uscire dal campo obbligato della trincea, che è l'unico luogo di iniziativa politica che si è dato il centrodestra e il PDL carismatico personalistico, la trincea, capite? Per dire chi non è con il nostro capo è contro l'Italia. Allora, la politica è un'altra cosa, è articolare anche critiche, quindi uscendo una terra di nessuno, visto che è un partito carismatico, quando si articolano le critiche ci si attira prima che le folgori del capo, che attualmente ha altro a cui pensare, le folgori di quelli che ne costituiscono la corte, e quelli sì che scoccano le folgori, che ti levano il collegio, eccetera eccetera. Allora, a me piace questa roba, perché il centrodestra ha delle responsabilità pesantissime, perché chi la pensa come me, che non faccio politica, non farò politica, si trova nella condizione di non poter più parlare per anni, grazie al fatto che il centrodestra ha promesso meno tasse, ne ha messe di più, ha detto che cambiava lo Stato, invece non è vero, ha detto che faceva la riforma della giustizia, invece poi ha fatto le misure ad personam, eccetera eccetera eccetera. Quindi noi diamo, io personalmente ritengo che chi esce dalla trincea con iniziativa politica che intenda preservare una forza moderata, popolare, ma con una presa d'atto iniziale, che è la base per le iniziative politiche quando si va giù nel consenso della gente, e allora bisogna aprire gli occhi, mi sembra una maniera per arrivare poi a accordi politici, perché come diceva il professor Pasquino, i pezzi di politica devono a quel punto assumersi la responsabilità di fronte al paese, esplicitamente, di un passaggio di transizione per andare avanti, fare delle cose per rispondere all'Europa, chi ci sta chi c'è, e chi non ci sta non ci sta. Può essere un governo senza Lega da una parte e senza Vendola dall'altro, può essere che la Lega a quel punto a propria volta capisca che la linea dell'aver puntato i piedi no alle pensioni di anzianità è una linea a mio giudizio incomprensibile per vastissima parte del suo stesso elettorato, oltre che dannosa per l'Italia, al di là dei quattro voti delle due terzi delle corti che maturano il diritto in questi anni al nord, identificata l'onorevole Rosi Mauro come l'interesse nazionale. Ecco, però è la politica che deve fare queste cose. Sentiamo rapidissimamente un paio di ascoltatori, per esempio Walter dalla provincia di Venezia. Walter. Buongiorno dottor Giannino, e la ringrazio. Allora, due cose molto veloci. Condivido con lei nell'analisi che ha appena fatto, però vorrei riprendere due affermazioni dell'onorevole Stracquadagno che secondo me hanno qualificano la politica in Italia e che sono abbastanza aberranti. La prima, quando premette il fatto che ma noi siamo usciti, io condivido con l'onorevole Stracquadagno il fatto di criticare la propria maggioranza, perché è giusto farlo, però il dover affermare noi però dobbiamo ammettere che non abbiamo chiesto nessun posto personale, già questo ha detto che non gliel'hanno offerti, no ha detto che non gliel'hanno offerti, comunque va bene, sì, d'accordo, già il fatto di premettere, ho capito, ma questo, abbiamo assistito nella compravendita a cose di questo genere, ha ragione Walter, però andiamo dunque, ha ragione, naturalmente questa roba ci fa girare le scatole a lei come a me, a tutti gli italiani che hanno l'idea che la politica è un'altra cosa, però dice al di là di questo. Il secondo punto era non potremmo andare ad elezioni perché potrebbero essere vittima di personalismi, di personali risentimenti. Ma il personale risentimento noi paghiamo, noi italiani paghiamo loro, perché loro sono pagati da noi, in qualità di professionisti della politica. Non siamo qui a verificare quali sono i loro litigi personali, i loro risentimenti personali, per cui si va a mettere assolutamente in secondo piano il nostro interesse. Parliamo nostro e delle nostre famiglie. Dover risentire a livello personale e quindi colare. Chiaro. Chiarissimo, va, dai politici, insomma, sfacciano i professionisti e non ci dobbiamo occupare delle loro beghe personali. Benissimo. Antonio della provincia di Cuneo, rapido. Buongiorno. Rapido è questo. In parte il professor Pasquino ha risposto. Al posto di Berlusconi, chi, per fare che cosa, con quale maggioranza? Ecco, il professor Pasquino ci ha detto, e poi? E poi vorrei che una cosa a lei, cioè, sento la sua trasmissione e altri, penso che molti politici, e voi non li correggete, soprattutto lei che è un giornalista economico, molti politici non conoscono la differenza tra spesa e investimenti. Questo Stato in questo momento ha bisogno di risorse per investimenti, non per consumi, per spese. Se no non ne usciamo più, ne possiamo uscire momentaneamente, ma siamo sempre lì. La questione si ripropone tra qualche anno. Antonio, abbiamo incessantemente, almeno da questi microfoni, Radio 24, è solo 24 ore, ma comunque incessantemente ricordato che in questi anni la componente della spesa che è sempre stata più tagliata è stata quella esattamente per investimenti, mentre invece la spesa corrente è quella che si è assorbita i 7 punti di PIL di minori interessi sul debito pubblico, il nostro grande dividendo dell'euro, che invece che essere tradotto, per esempio, minor pressione fiscale a parità di spesa reale sul PIL, abbiamo tradotto in più spesa corrente. Corrente, e per rientrare tagliamo quella per investimenti, esattamente come dice lei, purtroppo. E oltre a tagliare la componente pubblica, non abbiamo neanche le prospettive per capitale privato, per fare per esempio le infrastrutture, perché per esempio per arrivare a una disciplina del project financing meno penalizzante in termini di tempi certi e condizioni di redditività del capitale investito, di esecuzione delle opere e di limiti alle impugnative per esempio amministrative, su questo parole, ma di fatto non siamo riusciti ad assumere per esempio un modello conferenze di partecipazione dei soggetti territoriali come quelle che vigono in Francia. In Francia danno certezza assoluta sui tempi come sui diritti di tutte le parti coinvolte. Da oggi inizia un nuovo regime, per cui quando scadono i tempi ci sfumeranno anche se continuiamo a parlare, perché la pubblicità ha i suoi diritti, l'azienda fa bene a rispettare i tempi, perché sennò la GCOM ci multa. Però avviso, perché se capita che qualche conduttore per esempio non riesce proprio a chiudere in tempo, io mi scuso preventivamente con gli ascoltatori, perché i tecnici fanno il loro mestiere, hanno un obbligo doveroso e quindi non è colpa loro, non è colpa di nessuno, sarà eventualmente colpa mia. Rapidissimamente ancora Antonio da Torino, prego Antonio. Sì, Giannino, buondì. Io volevo soltanto, proprio velocemente, telegraficamente, invitare un onorevole Stracquadagno, che spero sia ancora in collegamento, a continuare la sua azione, diciamo, riformatrice del Popolo della Libertà, lui con gli altri che sono con lui, perché io sono un elettore di centrodestra, in particolare di Forza Italia dal 94, e come sento molto dire anche nelle sue trasmissioni, sono un deluso di come sono andate. Del Berlusconi di quei tempi là, quello che faceva sognare di rivoluzione liberale, insomma. Perfetto. Proprio di quel Berlusconi di quei tempi là, che è stato sicuramente, se vogliamo usare un termine poco politico, un mio idolo, pensavo veramente potesse fare delle grandi cose. Antonio, però bisogna ammettere che insomma ci siamo sbagliati, quindi il problema è che chi ha quelle idee deve fare altro, perché altrimenti se le identifica con un uomo deve fare un appello, se eletto come Stracquadagno, in questo secondo me è apprezzabile la loro iniziativa, che dice proprio in coerenza di questo non ci puoi chiedere, Berlusconi, di non vedere che intorno le condizioni impongono di fare un passo indietro, lo so che Stracquadagno dice non è un passo indietro, non è un passo avanti, d'accordo, di assumere l'iniziativa politica di preservare un'area che non si immedesima mai con un fondatore, neanche quando un partito è fondato da una persona, è così, perché la storia va avanti e l'evoluzione politica rispetto ai sondaggi impone a chi fa politica di capire che o si prende atto di un giudizio popolare, e se possibile prima che venga espresso, oppure se lo si fa solo dopo è troppo tardi. Questo è, la politica serve a questo. Stracquadagno ha sentito un po' di telefonate varie e diverse, mi pare di capire che la cosa apprezzabile, temevo giudizi più da ascoltatori del centrodestra irati che dicessero traditori di traditori, qui mi sembra che la consapevolezza si diffonde, non c'è nessuno che parla in questi termini. grazie a Dio nessuno mi vuole fucilare. Punto, non ve lo sono spiegato prima, sui risentimenti personali non ha a che fare con la mia persona, ha a che fare con l'illusione che purtroppo viene coltivata, che ha battuto Berlusconi, i problemi dell'Italia siano magicamente risolti. E invece no, se anche Berlusconi fosse abbattuto in modo violento, i problemi dell'Italia stanno tutti lì, anzi sono più gravi. Questo volevo intendere. E per rispondere al professor Pasquino, vede perché la ricetta della sinistra non funziona? Perché chiede consenso politico per la patrimoniale, illudendo le persone che pagare i debiti pubblici con il risparmio privato sia una soluzione ai nostri problemi. E invece quello che abbiamo fatto per tutti questi anni, creato debiti pubblici e pelato il risparmio privato attraverso un'altra tassazione. Abbiamo bisogno di rimettere a posto la contabilità. Al debito pubblico fa fronte il patrimonio pubblico, al debito privato il patrimonio privato, altrimenti non se ne viene fuori. Però tra guadagno, questa è proprio la linea di Tremonti, quella cui Tremonti non vi ha fatto passare, per così dire. Ma è possibile mai che questo problema si risolva con un viaggio in aereo insieme a Berlusconi ieri e Giovanni, senza che questo dissenso radicale rispetto a ciò che voleva la maggior parte di voi rispetto al ministro dell'economia salti fuori? Mi permetta che non è la linea di Tremonti. Quando Tremonti ha detto che la sostenibilità del debito italiano è garantita dal fatto che il risparmio e il patrimonio privato sono molto elevati, ha aperto la strada ideologica alla patrimoniale. Invece la mia linea dice che la contabilità deve essere pulita. Il debito è pubblico, la patrimoniale ci fa sul patrimonio pubblico. Ma riuscirete a fare un dibattito Stato all'interno del PDL su questa cosa di Tremonti, secondo lei? Se Tremonti lo affrontasse in modo aperto, invece di candidarsi con un partito autonomo, che l'altro giorno è andato autonomamente a fare consultazioni al Quirinale e ha concertato l'impossibilità di fare un decreto, che mi pare una follia in termini politici, noi saremmo pronti a un dibattito. Allora, su questa promessa di pronti a un dibattito su Tremonti, che naturalmente finirà sulle agenzie, grazie a noi Straquadano e al professor Pasquino, gli ultimi pochi secondi per dire, ascoltatori, l'offerta politica va modificata, altrimenti avremo non solo tutti da pagare, che può essere anche giusto, ma pagheremo male, perché la politica avrà le idee annebbiate. A domani a Linea Generale Radio.